Amen. Vogliamo accomodarci, aprire insieme la Bibbia e vedere quello che il Signore ha da dirci questa mattina. E io voglio parlare di investimenti. Pausa. E nelle nostre menti stiamo tutti pensando al conto bancario, agli investimenti fatti, ai Bitcoin, perché va di moda adesso questa cosa, no? Pare che il Bitcoin adesso vada bene e quindi tutti coloro che investono in Bitcoin sono felici, per poi essere terribilmente tristi nella fase successiva, perché il mercato sale, scende e gli investimenti non sono sicuri, gli investimenti economici non sono sicuri. Il verbo investire deriva dal latino e significa coprire con una veste. E rivestire, circondare. E così il significato di dare il significato economico di dare ai risparmi un investimento significa dargli una nuova veste, cioè collocarli, impiegarli in strumenti attraverso strumenti finanziari in modo tale che possano crescere. Questo è l'investimento, questo è l'investimento. E posso dirvi una cosa, per quanto il vostro consulente finanziario, il vostro direttore di banca possa parlarvi di investimenti sicuri, non ci sono investimenti sicuri. È vero? Siete consapevoli di questo? Vi sto dando una brutta notizia? Non ci sono investimenti sicuri, non c'è un investimento sicuro economico, soprattutto poi in un tempo dove basterebbe a un capo di Stato, in questo tempo poi di bollore politico, di schiacciare un tasto e tutto poi va all'aria, e tutto viene rimesso in discussione. E quindi se tu affidi la tua vita agli averi, alle ricchezze terrene, e vacilli in un mondo instabile. E quindi è chiaro che io questa mattina non voglio parlarvi di investimenti economici e finanziari, ma di un investimento invece sicuro, un investimento certo, un investimento che se fai hai la certezza di ottenere ricchezze che si moltiplicano. Tu dai un tot e poi ricavi molto molto di più. Questo è l'investimento di cui voglio parlare questa mattina. Parlando di investimenti, ci troviamo nel mese di marzo e abbiamo lasciato alle spalle il mese di febbraio, che è stato per la nostra Chiesa un tempo di investimenti, perché così io vedo Dono perché amo, questa raccolta straordinaria che facciamo ogni anno per investire nel Regno di Dio. E ovviamente è una raccolta libera, i donatori, nessun donatore è costretto a dare quello che dà, il dono è segreto, nessuno lo deve sapere, però io voglio farvi sapere quando abbiamo raccolto tutti quanti insieme, perché è motivo di celebrazione. E quindi vi preparo a fare un grosso applauso, perché con Dono perché amo di quest'anno, nel mese di febbraio 2024, abbiamo raccolto insieme 11.446. 11.446. 446, mi piace, c'è pure la virgola, annaccia, non l'ho messa, ci sono pure i centesimi, l'avrei dovuti, mi sa che sono 36 centesimi, e gloria a Dio per quei 36 centesimi, perché mi parlano di persone che hanno dato anche centesimi, hanno dato valore al centesimo offerto. Poi se l'hai dato per distrazione o per elemosina o superficialità, il Signore ti perdoni, però io credo che tutto ciò che abbiamo dato, l'abbiamo dato con il cuore. E che cosa faremo con questi soldi? Beh, investiremo nel Regno di Dio, benediremo le opere che il Signore ha messo a cuore nella nostra Chiesa. Non è per noi, questo è un investimento per ben 14 ministeri, opere diverse, chiese diverse, persone con disagi economici che avete avuto modo di leggere nelle scorse settimane. Avevamo affisso la tabella nella Ole, se volete ancora saperlo, perché ancora non vi è stato dato la possibilità di leggere, avrete modo di consultare questa lista online, magari possiamo metterla online oppure potete venire a chiedere. E per me motivo di orgoglio far parte di questa Chiesa generosa. Io sono contento, non so tu, ma io sono felice di essere parte di una Chiesa che può andare ad un'altra Chiesa e dire: sai cosa? Abbiamo raccolto così, perché sentivamo nel cuore, da parte dello Spirito Santo, al di là dei delle nostre decime offerte consuete, abbiamo raccolto qualcosa in più e vogliamo benedire la vostra chiesa, il vostro progetto di edificazione di un nuovo locale. E tutto questo è partito proprio da questo messaggio profetico che il Signore ci ha affidato quest'anno, che è tu non io, vivere l'altruismo, vivere per gli altri, e quindi non raccogliere solo ed esclusivamente per quello che il Signore ci dà da fare come chiesa, ma essere generosi e benedire altre chiese, benedire altre opere, altri ministeri, senza avere nulla in cambio, perché questa è vera generosità. E il Signore dice nella sua parola che c'è più gioia nel dare che nel ricevere. Non so quanto hai scoperto questa verità, però io voglio parlare di un investimento questa mattina che porta gioia. E quindi leggiamo insieme. Spero di veramente sbloccare gioia nelle vite nostre questa mattina, perché ne abbiamo bisogno. Quanti hanno bisogno di gioia? Io voglio più gioia, io voglio una gioia piena. E quindi leggiamo insieme queste storie, perché ci raccontano, ci parlano di gioia. È Gesù che parla, è Gesù che racconta queste due storielle. Dice: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde e per la gioia che ne ha. E per la gioia che ne ha. Ha trovato un tesoro nascosto. Va e vende tutto quello che ha e compra quel campo, un investimento. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata. Vedete come Gesù parla proprio in termini di investimento, parla di un mercante, parla di una persona che si imbatte in un tesoro e, trovando questo tesoro, fa il giusto investimento di comprare quel terreno, magari per una cifra che è superiore al valore reale di quel terreno. Ma perché? Vende tutto, lascia tutto, perché si rende conto che in quel terreno c'è qualcosa di prezioso, che è un tesoro e quindi è un valido investimento. Gesù ci invita a fare un investimento migliore, a fare un investimento fruttuoso, a fare un investimento che produce gioia nelle nostre vite. E questo investimento è un invito che Gesù offre da millenni, perché questa storia riportata nei Vangeli viene letta e riletta da così tante persone. Ma chi si appropria di questo tesoro e di questa perla valorosa sono solo coloro che scelgono di fare l'investimento. I primi che hanno investito in Bitcoin oggi si trovano con una ricchezza straordinaria, perché quando il Bitcoin sembrava uno spreco, è una moneta che non aveva valore, queste persone hanno scommesso. E quando parliamo di investimenti finanziari si tratta proprio di scommesse. È per questo che non vi sconsiglio di scommettere e vi sconsiglio di fare investimenti. E il mio messaggio non è: investite in Bitcoin, ma investite in un valore maggiore, che è il regno di Dio. Amen. Queste storie sono identiche, avete notato? E io credo che sono identiche, perché come tutti noi, quando parliamo con qualcuno e arricchiamo la nostra argomentazione con degli esempi, più vogliamo far valere il concetto, più vogliamo sottolineare un determinato concetto, più esempi offriamo. E Gesù ne offre tanti, non solo queste due storie, offre tante altre storie, proprio per enfatizzare il valore del regno di Dio. E queste due storie hanno solo una differenza. Il primo uomo si imbatte in questo tesoro e lo scopre per caso. Si imbatte in un terreno con un tesoro, nasconde il tesoro che ha trovato e poi va, vende tutto e compra il terreno per far proprio il tesoro. L'altro invece è un mercante, quindi è alla ricerca di un tesoro maggiore, di una perla di maggior valore. E io credo che questa differenziazione proprio parla delle nostre testimonianze di vita. Cercare e trovare il Signore è qualcosa che avviene cioè tu trovi il Signore, tu trovi la ricchezza dell'Evangelo, tu trovi la ricchezza della salvezza, o in maniera inaspettata. Quanti possono testimoniare che in maniera inaspettata era una giornata comune E un mio amico, un mio parente ha cominciato a farmi questo discorso, che però ha avuto effetto nel mio cuore, no? Vedo Alessandra Mandorino lì e mi ricordo ancora come lei ha ascoltato l'Evangelo, perché eravamo a Mottola e Giorgia è andata a prendersi un cappuccino di pomeriggio, che non si fa, perché è solo dopo le 11. Ah, dovevi andare al bagno, proprio per essere precisi e dirlo a tutti, anche a chi è online, doveva andare al bagno, Giorgia era a Mottola, doveva andare al bagno e quindi va al bar, compra qualcosa, come tutti fanno, l'acqua, la cosa più economica, per usufruire del bagno, però incontra Alessandra e condivide con lei l'Evangelo. E Alessandra non si aspettava che quel giorno sarebbe stato così straordinario, ma quel giorno è diventato straordinario perché si è imbattuta nel tesoro. La mia storia invece è la storia di una persona, di un ragazzo che era alla ricerca di una gioia completa, che era alla ricerca di una soddisfazione e la cercava in mille modi diversi, in strade diverse, come tutti gli adolescenti, bene o male, cercano di vivere esperienze sempre più forti, sempre più significative per trovare la gioia completa. E poi, nella disperazione di una ricerca che non trovava esito, io ho urlato al Signore e gli ho detto: se tu sei vero per la mia vita, rivelati e dammi questa gioia. E il giorno dopo, io ricordo ancora, il giorno dopo che ho fatto questa preghiera, io sentivo una gioia nel mio cuore che era una gioia completa. Gioia completa. Gesù vuole darti una gioia completa. Non una gioia frammentata, non una gioia parziale, vuole darti una gioia completa. In Giovanni 15, se andate a leggere, Gesù racconta questa storia e dice: voi siete tralci e dovete essere innestati nella vite, io sono la vite. Se voi come tralci siete innestati in me, voi porterete frutto, voi avrete vita, non sarete secchi, aridi. E poi, dopo aver raccontato questa storia, si rivolge ai discepoli e dice, vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Gesù vuole darci gioia completa. Il mondo ha da offrirci una gioia parziale, temporanea, passeggera, che ha a volte retrogusti di morte, che produce sofferenza a volte, colma un vuoto e crea una voragine. Gesù dice: investi nella giusta gioia, investi nel regno. Quindi queste sono le differenze che troviamo in questa storia, però ciò che accomuna le due storie e ciò che conta veramente quindi è che tutte e due le storie hanno un significato molto chiaro e molto elementare. Gesù sta dicendo che non c'è nessun'altra cosa nella vita di un uomo che abbia così tanto valore quanto l'appartenenza al regno di Dio. Questo è il significato. Non c'è nessun'altra cosa nella vita di un uomo che abbia così tanto valore quanto il regno di Dio. Per questo questi uomini vendono tutto, lasciano tutto, sono disposti a investire ogni cosa, perché la ricchezza maggiore di cui Gesù sta parlando è la ricchezza dell'appartenenza al regno dei cieli. E posso dirti questo questa mattina? Questo messaggio, questo invito vale anche per te. Ascoltami bene, non c'è ricchezza maggiore per la tua vita se non quella di afferrare ed essere parte del regno di Dio. Ah, pensavo di avere una risposta più vigorosa da parte di coloro che ci credono. Lo ridico, non c'è ricchezza maggiore per la tua vita se non quella di appartenere al regno di Dio. Amen. Se non hai detto amen perché forse non vivi questo, ma ti posso garantire che questo è un investimento certo, e questo amen che hai sentito è l'amen di persone che hanno investito, che hanno assaporato, che hanno lasciato, che hanno rinunciato. La rinuncia è prevista, ma non è una rinuncia senza un beneficio. A me piace questa cosa che per la gioia, l'abbiamo letto, no? Per la gioia. Per la gioia che ne va e vende tutto. Per la gioia che ne ha, va e vende tutto. Per la gioia. Il regno di Dio è un Dio, è un regno di gioia. C'è scritto in Romani capitolo 14 che il regno di Dio consiste in giustizia, gioia e pace nello spirito. Gioia. Il popolo di Dio è il popolo più gioioso perché ha scoperto la gioia completa. Noi non vaghiamo disorientati alla ricerca di una gioia frammentata e parziale. Noi siamo nella gioia, noi dimoriamo nella gioia, noi abbiamo gioia. Mi fate un sorriso? È così, è vero anche per voi. È così. Puoi fare un sorriso alla persona che ti sta a fianco, fargli vedere i tuoi bei denti lavati stamattina. Per la gioia. Ed è un inganno del nemico, è l'inganno, è la madre di ogni inganno, quello che il nemico dice, che c'è una gioia maggiore nelle cose di questo mondo, nelle cose che luccicano, brillano, che sembrano appariscenti, che sembrano anche ben promosse, sponsorizzate da persone che, se poi vai a vedere, non vivono una gioia completa nelle cose che promuovono e che mostrano, e che in questi tempi famiglie così ricche si rompono, eppure loro mostravano l'unità della famiglia, la bellezza della famiglia, la gioia delle ricchezze, ma tutto cade se tu non hai una gioia più grande, e la gioia più grande è Cristo Gesù. E io voglio parlare di questa gioia questa mattina, perché sento nel mio cuore che dobbiamo lasciare questo luogo con gioia. Non so come, se sei entrato a testa bassa, con la curva, con la schiena curvata, io spero che tu questa mattina possa uscire da questo luogo come gli africani escono dai loro incontri domenicali, danzando. Perché gli africani sono bellissimi. Dovete andare in Africa, dovete partecipare ad un incontro di chiesa africana. Io non ci sono stato, ma sono stato in una chiesa africana a Macerata. Vale? Erano tutti nigeriani. E sembrava di essere in Africa. Ed è stato bellissimo, l'incontro è durato 3-4 ore, non finiva più. Io ho predicato per mezz'ora e tutti sono rimasti lì. Beh, ok, dopo questa introduzione ci puoi predicare la parola? E quindi oggi vogliamo essere un po' africani, questo incontro durerà 3-4 ore, mangeremo insieme e torneremo danzanti a casa. Vi va? Siete con me? Qualcuno sì. Il regno di Dio è un regno di gioia. Il regno al quale il Signore ci invita non è un luogo di rinuncia ingiustificata. Oh, quanto è importante comprendere questo. Gesù non dice: venite a me e vi presenterò una vita ricca di tante rinunce. Venite dietro a me e dovrete rinunciare a questo, a quest'altro, e vi inscatolerò in una vita bigotta, stretta, fatta di regole, difficile. Questo è il mio invito a voi: venite dietro a me e io vi inscatolerò anche con altri che vi inscatoleranno, e nel momento in cui sbaglierete io vi punterò il dito e gli altri vi punteranno il dito, perché vi dovete comportare bene seguendo delle regole. Questa è la vita alla quale io vi invito. No, Gesù dice: venite dietro a me e io vi farò pescatori di uomini. Voi sarete liberi e avrete un destino meraviglioso, perché potrete pescare fuori dall'oceano di guai, dall'oceano di tenebre, altre persone che sono imprigionate in una vita chiusa. Dio ci invita alla vera libertà, Dio ci invita alla vera gioia, Dio ci invita sia delle rinunce, ma che non sono rinunce, che hanno un prezzo più caro dell'investimento e della ricchezza che si ottiene. Dio dice: rinuncia, sì, lascia tutto, vendi tutto, ma perché? Quello che hai da ottenere è qualcosa di molto, molto più valoroso. Hai da ottenere la vera vita, la vita vera, la vita nella quale gli altri pensano che sei inscatolato in regole, ma tu vivi la vera libertà, perché sei libero dal potere e il dominio di Satana. Il regno di Dio è un luogo di gioia incomparabile. Il regno di Dio è, che cos'è? Che cos'è il regno di Dio? È un luogo, ma non è un luogo geografico. È un regno, sì, ma non è fatto di confini geografici. È un luogo nel quale noi abbiamo la possibilità di posizionarci, per grazia di Dio, in Cristo Gesù, tu hai la possibilità di entrare in questo luogo perché Gesù ha pagato il prezzo delle tue colpe, dei tuoi peccati, che non ti darebbero accesso al regno di Dio, ma Gesù ha pagato per te, lui ha pagato il prezzo di riscatto, tu hai il perdono dei tuoi peccati, delle tue mancanze, del tuo non seguire la volontà di Dio, del tuo aver vissuto indipendentemente dal tuo creatore, e per grazia, per amore, per misericordia di Dio, per il sacrificio di Gesù, hai la possibilità di entrare in questo luogo. E che cos'è il regno di Dio? Il regno di Dio, pensate a un re, no? È al dominio di un re, è il regno nel quale Gesù domina, Gesù ha autorità, dove tu hai un re ed è il migliore, è Cristo Gesù. È un luogo dove tu hai un'autorità che non solo è una copertura per te, che ti dà dei confini specifici nei quali vivere, ma il re Cristo Gesù è colui che protegge la tua vita e che ha cura di te e che ti guida. Questo fa un buon re. Lui ti guida al meglio. Lui ti protegge dagli attacchi, dai nemici. Lui ha cura di te. Lui si prende cura di te. Per questo è un luogo meraviglioso nel quale vivere. È meraviglioso vivere nel regno di Dio. E sapete, non c'è un regno di mezzo. Purtroppo è così, c'è il regno di Dio o c'è purtroppo il regno delle tenebre. Ve lo voglio leggere in Colossesi 1. Perché o siamo soggetti ad uno o siamo soggetti all'altro. In Colossesi 1 ci viene detto, dal versetto 13, che Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Quindi c'è un potere delle tenebre, un regno delle tenebre, dove tu sei soggetto al dominatore di questo mondo, Satana, sei condizionato dalla tua carnalità e dalle tue scelte sbagliate, indipendenti dal tuo creatore. Questa è la condizione del mondo nel quale ci ritroviamo, è per questo che non dovremmo sorprenderci che il mondo è quello che è e rimarrà quello che è, perché sceglie di ignorare il regno il quale ha la possibilità di dimorare. Ma noi, figli di Dio, salvati per grazia in Cristo Gesù, abbiamo l'opportunità di entrare sotto il dominio di Cristo Gesù. La mia vita non è dominata da Satana, la mia vita è dominata da Cristo Gesù. La mia vita è libera, la mia vita è piena, la mia vita è gioiosa. Amen. La mia vita è guidata, la mia vita è protetta. Io non sono lasciata alla casualità delle circostanze. Dio ha un piano per la mia vita e Lui lo realizzerà. E nelle stagioni facili io riconoscerò la sua bontà. E nelle stagioni difficili io potrò nominare quello che c'è scritto in Romani 8, che tutto coopera al bene per coloro che amano il Signore Gesù. E nella fiducia che ho in questo Gesù, nelle stagioni anche più difficili, più buie, io ho la sicurezza di essere ben protetto, ben guidato e ben curato da un buon re. Questo è il regno dei cieli al quale il Signore ci invita. Vedete l'Apostolo Paolo, che cosa dice? Scrive ai Filippesi, fondamentalmente avrebbe potuto scrivere, vi ricordate la storia che Gesù ha raccontato? Io l'ho vissuta, io sono la testimonianza vivente. Vi ricordate di quell'uomo che ha venduto tutto, ha lasciato ogni cosa per comprare il terreno e afferrare la ricchezza del tesoro? Io sono quell'uomo. Vi ricordate quel mercante di cui Gesù parla, che era alla ricerca? Io ero quell'uomo alla ricerca e poi ho trovato Gesù, è apparso e io ho ottenuto la ricchezza migliore. Ed è per questo che lui scrive qualcosa di simile a quello che ho appena detto, ma lo scrive così, ai Filippesi capitolo 3, dal versetto 7, dice: ciò che per me era un guadagno l'ho considerato come un danno a causa di Cristo. Anzi, a dire il vero, Filippesi, a dirla tutta, ora vi dico proprio tutto, a dire il vero, ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. Io considero queste cose come tanta spazzatura al fine di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivata dalla legge, ma con quella che si ha mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. L'Apostolo Paolo sta descrivendo, e potete andare a leggere anche i versi precedenti, dice: io ero un uomo che era in uno status straordinario, onorevole. Io ero in autorità. Le persone erano sottomesse a me. Io avevo un riconoscimento, io avevo un potere, io avevo una fama, io avevo soldi. Io avevo una posizione sociale importante che mi veniva riconosciuta. E sapete cosa? Io ho rinunciato a tutte queste cose. E le ritengo spazzatura. Spazzatura indifferenziata. Plastica, carta, umido, spazzatura. È tutta spazzatura, tutta da lasciare di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo, della relazione mia con il Re, dell'appartenenza al Regno, dove io sono custodito, protetto, guidato. Tanta spazzatura. Ma io prego che tu possa vedere la tanta spazzatura. Vedi la tanta spazzatura. Non cadere nel tranello del nemico, in quell'imbroglione che ti dice: no, non è spazzatura, è bella. Oh, se solo Adamo ed Eva avessero visto la spazzatura che derivava da quel gesto. Avevano un giardino ricco, erano alla presenza di Dio, avevano ogni frutto, e il maligno li punta a guardare un unico albero, un unico frutto, a farlo vedere come la cosa più bella, quando in realtà c'era una disubbidienza. Una disubbidienza che ha portato loro a morte e noi oggi a morte. Ma c'è un recupero che Gesù ha fatto per le nostre vite e si chiama la salvezza per grazia. Tu puoi accedere mediante il perdono di Cristo Gesù di nuovo in questo Eden che è l'appartenenza al Regno di Dio. E ci sono tanti frutti belli. Ignora i frutti che luccicano. Ignora quelle cose che il diavolo ti dice: ma guarda, tanto bello, tanto buono, tanto desiderabile. Non farlo, è spazzatura di fronte a quello. E non mi sto riferendo solo ai peccati, ai compromessi, alla disubbidienza, ma anche a quell'idolatria che così facilmente prende piede, quelle distrazioni che così facilmente prendono la nostra attenzione e fanno cadere in basso il ruolo che Gesù dovrebbe avere nelle nostre vite e diventano i nostri re e le nostre regine, attrazioni, distrazioni, intrattenimento, le cose di questo mondo. Rinuncia, perché il re è bellissimo. E il salmista dirà nel Salmo 27: una cosa ho chiesto all'Eterno, di dimorare nella sua casa tutti i giorni e contemplare la sua bellezza. Se non sai di che cosa parlo, io ti invito a cominciare ad aprire il tuo cuore, perché c'è tanta bellezza da scoprire in Cristo Gesù. Lui è bellissimo e ogni giorno con Lui è una bellezza nuova che si sblocca. E il maligno cerca di farti vedere invece le cose negative. Sapete, la Chiesa è bellissima. La Chiesa è bellissima. La generosità di questa Chiesa è bellissima. La salvezza nel nostro mezzo è bellissimo. È bellissimo. Mercoledì in famiglia è bellissimo. Mercoledì eravamo qui in adorazione e lode per tutto il tempo. È stato bellissimo stare alla presenza di Dio in lode e adorazione. Sapete, e poi è arrivata la ciliegina sulla torta. A fine incontro salutavo le persone e c'era Maria, questa donna che da poco sta scegliendo di seguire il Signore ed è puntuale. Non può venire ogni domenica, mi ha detto già oggi non ci sarò, per questo la sto nominando. Però è venuta mercoledì per recuperare la domenica che non poteva esserci per lavoro. E lei era con le lacrime agli occhi e diceva: ma è bellissimo tutto questo, e dove sono stata finora? Ho perso tutta questa bellezza, è bellissimo cantare, lodare il Signore. È bellissimo, fratelli e sorelle, è Gesù è bellissimo, il suo regno è bellissimo, la Chiesa è bellissima, l'opera sua è bellissima, non farti distrarre dalle cose brutte che il maligno vuole sempre mettere davanti e rubare la gioia. Lui ruba gioia, è un ladro di gioia. È un furfante, è un farabutto, è un ladro distruttore che viene per rubare la gioia. E sapete come lo fa? Con l'ingratitudine, non facendoci vedere le mille ragioni per le quali invece possiamo essere grati. Io sono grato a Dio per la Chiesa di cui faccio parte. Qui a Modugno, della Chiesa Pieno Vangelo, sono grato a Dio della Chiesa universale di cui faccio parte, dei miei fratelli in Africa, li abbiamo già nominati e voglio rinominarli, per i miei fratelli americani, per i miei fratelli canadesi, per i miei fratelli olandesi, io sono grato a Dio per i miei fratelli brasiliani, io sono grato a Dio per la bellezza del corpo di Dio di cui io faccio parte e sono grato a Dio che posso vivere su questa terra nel suo regno. Amen. Sei con me? Sei ancora con me? Non perdere la gioia di questo tesoro, non perderla. Sapete, il mondo quando guarda i cristiani autentici, quelli radicali, perché questo vogliamo essere, le persone che non conoscono Cristo e che non conoscono questo tesoro ci guardano, ci osservano e ci dicono, forse non a voce ma lo pensano, dicono ma chi te lo fa fare? Chi te lo fa fare in una bella domenica di sole? Essere chiuso in un luogo buio, dovremmo mettere più luci in questo luogo, per leggere la Bibbia e cantare dei canti. Chi te lo fa fare a perdere una passeggiata al mare? Chi te lo fa fare a prendere parte dei tuoi soldi mensilmente per darli per l'opera di Dio? Chi te lo fa fare a rinunciare a questa cosa, a quest'altra cosa? Chi te lo fa fare a non avere un linguaggio libero come tutti noi abbiamo, a bestemmiare, parlare così liberamente? Chi te lo fa fare? Chi te lo fa fare ad essere così ligia e così attenta a vivere l'onestà, la sottomissione alle autorità? Chi te lo fa fare? No, abbiamo sentito Noemi della scorsa settimana, a non dichiarare che stai vivendo una gravidanza a rischio, tanto chi lo saprà e chi controllerà questa cosa? Per continuare a lavorare e prendere gli stessi soldi che potresti ottenere con una bugia, ma a fin di bene. Chi te lo fa fare a pagare le tasse? Chi te lo fa fare ad essere onesto? Chi te lo fa fare a non mentire? Chi te lo fa fare? E sapete perché dicono chi te lo fa fare? Perché non conoscono la completezza della storia. Vedono noi. Ora immaginate che Gesù racconti la storia dell'uomo che si imbatte nel campo dove c'è questo tesoro. E che pensate che Gesù la racconti senza parlare del tesoro. E racconti questa storia dicendo c'è un uomo che a un certo punto nella sua vita ha visto un terreno e ha venduto tutto ciò che aveva per comprare quel terreno. La storia è delle più patetiche e tutti noi diremmo chi te l'ha fatto fare? Hai venduto tutto, tutte le tue proprietà, tutti i tuoi averi, hai preso i conti in banca, li hai investiti in un terreno che non vale niente, che non vale tutto questo. Questa è la storia incompleta che troppo spesso il mondo vede, ahimè a volte anche noi cristiani vediamo. E riduciamo il seguire Cristo e vivere nella ricchezza sua a una vita che è fatta di rinunce. Fatta di rinuncia, lascio questo, lascio quest'altro, e ci domandiamo, cominciamo a domandarci anche noi, ma chi me l'ha fatto fare? È il tesoro che me lo fa fare. È il tesoro, è la ricchezza che me l'ha fatto fare. E alle persone che non credono in Cristo Gesù e che non conoscono questa ricchezza, a loro dire chi te l'ha fatto fare, il credente risponde, non sai che ti perdi. Amen. Non sai che ti perdi. Vedete, io lo cerco di spiegare questa mattina, ma non si può spiegare questa ricchezza. E vorrei dirti, non sai che ti perdi per la gioia che puoi avere nel servire il Signore, non sai che ti perdi nel dare i tuoi averi a Lui e poi vedere come Lui provvede. Potrei dare tante testimonianze, potrei dare il microfono a voi, far raccontare le vostre storie di come Dio interviene, ma è vero questo, che se non lo provi personalmente, nessuno ti può convincere. E io ti dico questo, e ti lascio con questa domanda, con questa affermazione anzi. Non sai che ti perdi. Stai cercando in questo mondo soddisfazioni e ricchezze. Sei disposto a scommettere su tutto e a lasciarti ingannare da quelle voci, da quei pregiudizi che dichiarano i cristiani bigotti, chiusi in una vita di rinunce dove non c'è ricchezza. Non sai che ti perdi. Non sai che ti perdi, perché i veri cristiani che afferrano la ricchezza del regno di Dio non tornerebbero mai indietro, anzi i veri cristiani dei quali leggiamo nella parola di Dio e che ancora oggi ci sono sparsi nel mondo in posti dove c'è persecuzione, arrivano alla morte fisica, e davanti alla morte fisica dicono no, io non rinuncio, non sai che ti perdi. Perché Cristo vale molto di più, anche della vita terrena. Puoi puntarmi una pistola alla tempia, ma io non torno indietro, perché tutti i discepoli sono morti martiri e non ci hanno ripensato. Perché nessuno di loro si è alzato a dire, ma sapete, forse non ne vale la pena. Questa fede che abbiamo abbracciato, questo insegnamento di Gesù che stiamo seguendo, è un po' troppo costoso, è un investimento che non ne vale la pena. Invece no. E leggiamo ripetutamente negli Atti degli Apostoli, nelle lettere, fino ad arrivare in Apocalisse, di cristiani che gioiosamente vanno al martirio e sono disposti a morire perché hanno un'affermazione interiore che grida: non sai che ti perdi. Il regno di Dio è tutto e vale tutto. E il Signore non abbasserà il prezzo per convincerti ad entrare. Non dirà, ah, ma forse è un po' troppo costoso chiedere a chi vuole ottenere questo tesoro di dover lasciare proprio tutto. No, il Signore dice, se uno vuol venire dietro a me, rinunci a se stesso. Rinunci a se stesso. Prenda ogni giorno la croce, che è un attrezzo di tortura ed è un attrezzo che parla di morte, e mi segua. Sapete perché Gesù non abbassa il prezzo? Perché sa che ne vale l'investimento. E posso aggiungere qualcosa a questo? Per quanto il Signore ti chiederà di pagare, di rinunciare, la ricchezza che otterrai, che ancora oggi non conosci ma che conoscerai, che io non posso descriverti bene, anche la Bibbia è parziale nella descrizione, ti porterà per l'eternità, c'è scritto, ad adorare il Signore. Sapete perché adoreremo il Signore per l'eternità? Perché ogni giorno ci sveglieremo, se mai dormiremo, per dire, wow Signore, io ho dato proprio poco e tu tutto questo. Io ho dato proprio così poco per così pochi anni e ho tutto questo per tutti questi anni, per tutta l'eternità. Wow Signore, ma tu sei misericordioso, ma tu sei veramente così buono, ma tu sei così generoso, ma Signore perdonami ancora, non chiederemo perdono in cielo, però perdonami ancora per tutte quelle volte che dicevo il prezzo è troppo alto. Che stupido che ero, non vedevo. Vogliamo alzarci in piedi, vogliamo pregare ora. Io voglio invitare coloro che vogliono afferrare questa gioia, ad afferrarla questa mattina. Vogliamo chiudere i nostri occhi e se tu dici io voglio con tutto il cuore vivere per una causa e una ragione maggiore, io voglio sperimentare la ricchezza che c'è nel seguire Gesù autenticamente. Mentre abbiamo i nostri occhi chiusi, se tu senti nel tuo cuore di dover fare una decisione questa mattina, Io voglio pregare per te e voglio pregare con te affinché tu possa arrendere la tua vita a Gesù, che non ha nulla da toglierti ma tutto da darti. E ti vuole invitare a una vita migliore, straordinariamente migliore, perché fatta della ricchezza sua. Il Signore questa mattina ti sta chiamando a lasciare il regno delle tenebre dove domina il maligno e dove lui ti mantiene imprigionato in preconcetti e in idee sbagliate e in bugie che stanno sabotando il tuo destino di vita, a lasciare questo regno di tenebre e ad entrare nel regno della luce. Il Signore ti invita questa mattina: afferra il mio regno, entra nella luce, prendi la vita piena che io ho da darti. Mentre abbiamo i nostri occhi chiusi, se tu vuoi questa preghiera per la tua vita, ti chiedo di alzare la tua mano dovunque ti trovi. Anche a casa, se mi stai ascoltando in questo momento, alza la tua mano. Non è importante che io la veda, è importante che tu lo faccia come gesto davanti a colui che è presente in questo luogo, a Gesù Cristo che è onnipresente ed è ovunque. Lui vede la tua mano. Grazie. Grazie per le tante mani alzate in questo luogo. Grazie per il coraggio. Grazie per la resa, che bello. Vogliamo pregare insieme. Non voglio solo pregare io, vogliamo pregare come chiesa tutti, tutta per te e con te. Se hai alzato la tua mano, ripeti con me questa preghiera. Chiesa, ripetete con me, facciamola insieme. Signore Gesù, arresi a te, ti diamo la nostra vita. Ti do il mio cuore, ti do le mie giornate. Ti prego di perdonare i miei peccati e di darmi un nuovo inizio, di darmi la vita piena, di darmi la vita abbondante. Signore, lascio tutto per te. Voglio credere che tu non mi deluderai e mi affido a te. Amen, amen, alleluia. Vogliamo fare un'ulteriore preghiera. Io ho a cuore di pregare per coloro che hanno perso la gioia. La vostra vita e la nostra vita da credenti può a volte ridursi in rinunce, dove perdiamo di vista la ricchezza, dove pensiamo, va bene, ho cominciato questa strada, vado avanti in questa strada. Ma Gesù oggi si è rivelato per dirti: riconosci la ricchezza di cui fai parte, afferra la ricchezza di cui fai parte. C'è una chiesa descritta nella Bibbia che ha vissuto un tempo glorioso, meraviglioso, un grande risveglio, migliaia, decine di migliaia di persone sono venute a salvezza in questa chiesa. E dopo circa 30 anni alla stessa chiesa viene indirizzata una lettera ispirata dallo Spirito Santo. In questa lettera il Signore dice delle cose specifiche a questa chiesa. E le voglio leggere perché può riguardare te, può riguardare me, può riguardare la nostra chiesa. È indirizzata alla chiesa di Efeso, ma può essere benissimo indirizzata anche alla chiesa di Modugno. E il Signore dice in Apocalisse, attraverso lo Spirito, dice a Efeso, alla chiesa degli Efesini: io conosco le tue opere, la tua fatica, la tua costanza. So che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli ma non lo sono e che li hai trovati bugiardi. So che hai costanza, hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancato. Non ti sei stancato. Vedete, questo lungo elogio che il Signore fa alla Chiesa è per dire: io riconosco la rinuncia, io la vedo la rinuncia. Io vedo che hai venduto tutte le tue proprietà, io vedo che tu hai lasciato tutta la tua vita, io vedo che hai pagato il prezzo per afferrare ciò che avevo da darti. Però tempo è passato, decenni sono passati e hai perso la gioia della ricchezza. Infatti aggiunge: ma ho questo contro di te. Ho questo contro di te. Che hai abbandonato il tuo primo amore, che hai abbandonato la vera ragione che inizialmente ti ha portato a fare le rinunce. Sei diventato religioso, rutinario, continui a fare opere buone, ma avendo perso la gioia della ricchezza, dell'appartenenza al regno, l'amore, il primo amore, l'innamoramento, la gioia di stare con me, la gioia di dipendere da me, la gioia di fidarti di me, anche nelle stagioni difficili. Nelle stagioni difficili il maligno viene per derubare il primo amore, per dire vedi non è così presente, vedi, non è che è così buono, vedi non è che chi ha così tanta cura di te. Bugie su bugie per derubarti del primo amore. E invece in quel momento devi reagire, dire no, io credo, io mi affido a colui in cui ho creduto. E torno al primo amore. Voglio essere innamorato di Gesù. Vuoi essere innamorato di Gesù? Io voglio essere innamorato di Gesù. In maniera fresca e autentica come lo ero dal primo giorno, che ha riempito il mio cuore di gioia. Oggi ancora e poi domani ancora e nei prossimi decenni se Dio vorrà. Se questo è quello che desideri, chiudiamo i nostri occhi. Se posso fare una preghiera per te, alza le tue mani. Oh, che il primo amore possa tornare. Riportaci a vedere, a contemplare la tua bellezza, Padre. Riportaci a vedere la ricchezza del tuo regno, a quanto ne valsa la pena in passato e quanto ne vale la pena ancora oggi, Signore. Aiutaci a non distrarci, aiutaci a non concentrarci su quanto abbiamo perso, ciò che abbiamo rinunciato. Non vogliamo guardare a ciò che abbiamo lasciato, perché volentieri l'abbiamo lasciato per te, Signore. E volentieri vogliamo continuare a lasciare, perché tu sei il bene più prezioso. Ma abbiamo bisogno che tu rinvigorisci il nostro amore per te, che tu ci sblocchi dal tornare al primo amore. Io lo prego per tutte le persone qui, in modo particolare per chi ha le proprie mani alzate in arresa. Facci tornare al primo amore, facci tornare ad essere bambini, facci tornare alla semplicità dell'Evangelo, facci tornare a riconoscere le distrazioni del maligno, facci tornare a desiderare la lode, l'adorazione, il canto, la preghiera. Rimetti in noi quel fuoco che brucia di gioia nell'appartenerti, a far venire ogni altra cosa come conseguenza di questo amore, non per raggiungere questo amore, perché questo non vuoi. Alleluia, Gesù, grazie. Stiamo qualche istante alla sua presenza. Fai la tua preghiera, vivi un tempo personale con il Signore. Lui ti ama, ti vede, ti ascolta. Che bello questa immagine, l'immagine di un padre che abbraccia il proprio figlio, la propria figlia. Che bella immagine. C'è tanta accoglienza in quell'abbraccio, c'è tanto affetto, c'è appartenenza in quell'abbraccio. E Dio è tuo padre e ti ama così, ti abbraccia, ti accoglie ora, ti stringe a sé. Perché gli appartieni, sei suo, lui ti ama. Grazie Gesù. bello. Persone stanno tornando a casa del Padre, e il Padre ti sta accogliendo. Sii accolto, sii amato. Alleluia. Vogliamo lodarlo insieme, adorarlo. Mentre rimani abbracciato a Lui, rimani abbracciato al Padre. Se senti questo profondo affetto che viene dall'alto, goditi questo momento. Lodiamolo insieme.